Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. In questi giorni la domanda che mi viene posta più spesso riguarda i medesimi libri ed è: come sono? Li hai letti? Certo, il promo è martellante ed efficace, visto che riesce a spingere in libreria insospettabili lettrici e lettori incuriositi dal contenuto. Di chi stiamo parlando? O meglio, di quali libri stiamo parlando? Lei è Anastasia Steele, studentessa in odor di laurea in letteratura inglese. Lui è Christian Grey, ricchissimo e potente uomo d'affari. Si incontrano per caso, visto che Anastasia sostituisce un'amica afflitta da febbre che avrebbe dovuto intervistarlo. Scatta la passione tra i due e, come non poteva essere altrimenti, di fronte a tutti gli argomenti di Christian, oltre che ricco e potente, è bello e fascinoso. Ovviamente stiamo parlando dei libri tormentone dell'estate, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di grigio, in attesa del prossimo 50 sfumature di rosso. Sembrerebbe la classica storia d'amore tra persone appartenenti a due mondi differenti. Anche se Anastasia riesce a vivere benissimo il divario tra lei e Christian. Odia che lui le faccia dei regali costosissimi, ma dopo poco meno di un nanosecondo è felice di averli ricevuti. Ha delle convinzioni piuttosto flebili su come mantenere integra la propria dignità. Lui, Christian, d'altro canto, ha il suo da fare a coinvolgere Anastasia in giochi erotici perversi, verso i quali lei ha lo stesso approccio che destina ai regali. Si va dal bondage al sadomaso, pagina sì e pagina no. Alla fine Anastasia lo lascia. Ma come? Uno così? Tutto fruste sculisci? Certo, le si è accesa la lampadina. Sei malato, urla e se ne va. Approdiamo a 50 sfumature di grigio con Anastasia sulle rive del dolore più cupo per aver preso questa malsana decisione. Ma la cosa non dura a lungo e nel giro di pochi giorni si ritrovano a far l'amore come i ricci, riconciliandosi con il letto e altri luoghi ameni dove esercitare la loro passione. Christian però è diventato un altro, più mansueto. Ha perso le velleità del dominatore, sembra, per amore di Anastasia. Vi dirò che in certi passaggi fa perfino tenerezza. Intorno a loro ruotano personaggi scialbi, o forse lo sembrano perché non reggono il confronto con i loro eccessi. Il secondo libro ci lascia con il fiato sospeso, in attesa di essere traghettati verso il terzo romanzo conclusivo della trilogia. Che dire ancora? Un successo editoriale così mette un po' di soggezione. Sembra quasi che non se ne possa parlare male, onde evitare che si offendano un po' di persone, i lettori a cui piace soprattutto. In realtà mi sono chiesta il perché di questo successo strepitoso. La trama non ha niente di che. Personalmente non ho provato nessun tipo di emozione nel leggere i due libri, nessun coinvolgimento, nessun batticuore, niente. Ho letto così, come leggerei una lista della spesa. È grave? È grave il fatto che il bondage o altre pratiche estreme non siano nei miei sogni erotici? È vero che il libro trasuda erotismo, ma è vero soprattutto che non vi è sensualità. E questa è una pecca che fa sì che la narrazione risulti fredda. Questa storia è lì come un corpo sul tavolo operatorio, illuminato a giorno perché si veda tutto, si veda troppo. La luce fredda non accarezza i sensi e non anima le percezioni. Le atmosfere vengono semplicemente elencate e comunque vengono disturbate dalla continua descrizione di elementi che ci dicono sempre quanto è ricco e potente Christian Grey, oltre a quanto è perverso. Comunque sia, i due romanzi della James non crolleranno nelle vendite di certo per questa recensione non favorevole ed i lettori amanti del genere possono dormire sonni tranquilli perché pare che 50 sfumature di grigio sarà presto un film. E noi ci sentiamo alla prossima. Tra le righe. e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.